sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Dicevano che uscisse dalla sua casa solo per andare a comprare del cibo, ma ogni volta vi faceva ritorno svelta svelta. Come unico compagno di vita le era rimasto il pianoforte, un pianoforte scordato, che lei suonava spesso pestando sui tasti con tutta la sua forza. Sono Amina, vivo per la maggior parte del tempo a Serrone, che è un paesino della Ciociaria bellissimo, un posto per riposare l'animo. Mi piace leggere, mi piace sentire la musica, mi piace scrivere e poi ecco i soliti rapporti con gli amici di vecchia data che sono, ne ho pochi ma buoni. A dicembre arrivano i festeggiamenti per il prossimo congedo ed Ezio De Piaggi propone un viaggetto a Gorizia. Avrei conosciuto una bella città, la sua famiglia, la madre, ottima cuciniera e naturalmente nostalgica della sua lontana Genova. Di buon grado accetto la proposta. Gorizia è inaspettatamente interessante. Divertente il recupero del dialetto genovese, ottimo il pranzo con le portate liguri e carsiche. E poi, per finire, c'è la gubana. Tipico dolce goriziano, dove una burrosa, friabilissima sfoglia avvolge una farcia di noci, uvetta e altre meraviglie. Io amo molto i dolci e la trovo entusiasmante, specie se accompagnata dall'immancabile slivovitz, distillato di prugne che mette allegria. E allegria c'è ricordando persone e paradossi della trascorsa vita militare, ordini e obblighi talora incomprensibili. E poi Genova, che mi stava aspettando. La mamma De Piaggi manca da Genova da molti anni, a nostalgia di tante cose che io presto ritroverò. A Natale poi il pan dolce, del tipo alto naturalmente, di fine pranzo, con il beneaugurante rametto di alloro piantato al centro. Non c'è problema, le dico. Arrivo a Genova fra pochi giorni, mi piombo dal migliore pasticcere che fa anche le spedizioni e per Natale certamente festeggerete con il vero panduse. L'idea piace molto e con Ezio facciamo un patto. Da quest'anno, per Natale, io spedirò il pan dolce e contemporaneamente tu spedirai la gubana. Era il dicembre del 1954. Sono passati 58 anni. Nel frattempo io, stabilitomi per lavoro a Torino, mi sono sposato, ho avuto figli, ho due splendidi nipotini. A tutti piace molto la gubana, quella che tutti sappiamo arriverà per Natale ed è parte della nostra festa. Ezio, stabilitosi per lavoro a Trieste, si è sposato, ha una figlia e splendidi nipotini. A tutti piace molto il pan dolce genovese, quelli che, loro sanno, arriverà per Natale, perché è parte della loro festa. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi siete qui e oggi raccontiamo una storia che è la storia di Amina, che avete sentito in apertura dalla sua viva voce. Quella che vi ho appena letto invece è un pezzo di una storia che abbiamo raccontato un anno fa, forse due anni fa, un anno fa, che è firmata ed è, ci è stata mandata da Giorgio De Ferrari, che trovate, se avete voglia di andare a scaricarvelo, se non l'avete già fatto, nel nostro ebook, nell'ebook di Voi siete qui, che trovate attraverso il sito di Radio 24. Vi dirò di più, essendo gratuito, potrebbe essere un ottimo regalo senza spendere una lira. Nessuno lo sa, voi andate sul nostro sito, trovate l'ebook, il link all'ebook, lo scaricate sul tablet di chi volete e arriva il giorno di Natale, cioè domani, dite voilà, guarda cosa ti ha regalato, un sacco di storie di persone che hanno condiviso pezzi della loro vita. 349-238-6666 è il numero di SMS per arrivare a noi. Oggi raccontiamo storie di persone che non per forza conosciamo molto bene, ma che hanno incrociato la nostra vita, proprio come la maestra di piano nel caso di Amina, persone che hanno qualche cosa, perdonatemi il termine, non lo userò mai più, di magico, qualcosa che vi lascia una sensazione che è quasi sovrumana, qualcosa che sta più alto del rapporto normale che si hanno con le persone. 349-238-6666, mettetevi comodi, ascoltatevi la storia di Amina e della maestra di piano. Dicevano che in gioventù avesse fatto la maestra di piano. Io la vidi che era già molto anziana, piena di rughe, sempre con un cappellino calcato in testa. Un cappello di velluto che una volta doveva essere stato Bordeaux. si affacciava a volte ad una delle finestre della sua casa, una casa al piano rialzato, alta dal marciapiede giusto un paio di metri, tanto che i passanti avrebbero potuto quasi darle la mano. Nessuno però si fermava a parlare con lei, perché era burbera, agitata e parlava da sola. La pianista l'ho vista qualche volta, ovviamente quando ero in vita, da lontano, e aveva sempre questo cappelletto informe, calcato, ed era sempre molto accigliata, zitta zitta accigliata, e qualche volta borbottava tra sé e sé, era come se inseguisse un suo ricordo lontano. Dicevano che uscisse dalla sua casa solo per andare a comprare del cibo, ma ogni volta ci faceva ritorno svelta svelta. Seppi poi che aveva avuto una vita molto triste. L'unico figlio si era suicidato già grande e il marito l'aveva lasciata da molti anni. Come unico compagno di vita le era rimasto il pianoforte, un pianoforte scordato che lei suonava spesso pestando sui tasti con tutta la sua forza. I miei genitori abitavano nei pressi e mia madre mi raccontò che una mattina, passando sotto le sue finestre, la vide affacciata, con la sua espressione sempre torva, triste. Allora, per portarle un po' di consolazione, mamma le tese un mazzolino di fiori che aveva comprato al mercato insieme a patate e zucchine. Mia madre era una persona molto sensibile e sicuramente le dispiaceva vederla così, sola e abbandonata da tutti. La maestra di piano guardò quei fiori molto meravigliata e tese la mano per prenderli, ritirandosi però subito dopo. Poi, forse per ringraziare del pensiero, si mise al piano e strimpellò una delle sue canzoni senza senso, suonando comunque con tutte le sue forze, per far capire a mia madre che aveva gradito quel pensiero. Passarono i mesi, la vita continuò sempre uguale. Dopo circa un anno, mia madre, passando sotto le sue finestre, la vide di nuovo. Le sorrise e le fece un cenno di saluto. La maestra di piano lì per lì non la riconobbe e la guardò sospettosa. Poi, all'improvviso, ricordò. Allora si ritirò un attimo e tornò alla finestra portando un piccolo vaso pieno di fiori secchi. I fiori che mia madre le aveva regalato un anno prima. Mamma rispettava pure questo suo senso di voler stare sola, e anche le persone del suo palazzo so che la rispettavano tutti, non protestavano mai quando lei anche a ore strane suonava così forte, nessuno le ha mai osato dirle niente. Passarono gli anni, spesso quando andavo a trovare i miei la sentivo suonare. Notai poi che cominciò a suonare tenendo la finestra chiusa e anche di sera non filtrava alcuna luce dalle imposte. Evidentemente suonava al buio. Seppi poi una cosa incredibile. Mamma era andata a chiedere notizie della signora al portiere dello stabile e questi le disse che era deceduta da qualche anno. La casa era chiusa. Dato che non aveva parenti, la sua casa rimase abbandonata per più di 10 anni. In tutto questo tempo, a volte, passando sotto le sue finestre, la si poteva sentire suonare. Le note sgangherate invadevano l'aria, salendo verso il cielo. I rari passanti tiravano avanti con aria distratta, non sapendo di assistere a un prodigio. Le sfide raccolte a 20 anni, nel sonno la scelta e nel buio, la tecnologia ammortizza il rimpianto e l'attesa. Artisti tamburo ed ombrello, per anni sulla Tuscolana, adesso dispersi cerchiamo la pace nelle ombre degli altri. È una bella signora, elegantissima, con un doppio giro di perle al collo, Amina, nella foto che ci ha mandato e che trovate anche oggi, anche se è la vigilia di Natale, sul nostro sito radio24.it, alla pagina di Voi Siete Qui. È adagiata, credo, su un divano, su un bel divano di casa, e guarda da una parte che non è l'obiettivo. Insomma, sembra proprio rubata questa fotografia. Pronto, Amina, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Bene, bene, benissimo. Grazie innanzitutto per la storia che è molto molto bella. E mi è piaciuto che tu nella mail mi abbia scritto, ed è tutto vero. Sì, sì. Senz'altro, ma adesso a parte questa che è stata una storia eclatante, nel senso che nessuno di noi si aspettava quello che poi ha saputo, no? Sì. Però ci sono tanti, tanti segnali di cose visibili e invisibili che bisogna saper cogliere. È bellissimo, è una cosa rasserenante, è una cosa bella, bella, bella. Amina, me la contestualizzi un po'? Allora, siamo a Roma, giusto? Dunque, io sono nata e ho vissuto a Roma, nella caotica città, ho lavorato per 27 anni in una banca che era quanto di più lontano dal mio carattere, però insomma l'ho fatto volentieri, mi serviva e l'ho fatto. Poi ho avuto la fortuna di trovare questo paese tranquillo dal quale si vede un panorama stupendo, a perdita d'occhio. Che si chiama? E si chiama Serrone, sul Monte Serrone. Scalambra. Quanto dista da Roma più o meno? Saranno 65 chilometri, non tanto, è vicino e lo conoscono solo quelli che fanno lo sport del parapendio, perché a metà costa, verso i 1000 metri, c'è una pista di lancio per il parapendio. Okay. Quindi tu vivi lì da qualche anno, Amina? Io sono più di 30 anni che sto qui. Da prima di andare in pensione siamo venuti per un avviso economico su un giornale, vendevano una casetta e io e mio marito siamo venuti qui e mi è sembrato di, non so, di tornare a casa quando l'ho visto la prima volta. Che è una sensazione, diciamo, che è abbastanza chiara. Se uno vive quella sensazione lì, non ha dubbi se prenderla quella casa, sì, oppure no. Ah sì, sì, ho cominciato a dar di gomito a mio marito che era più sul concreto, no? E quindi me l'ha presa perché mi vuole molto davanti, bene. Davanti all'agente immobiliare, immagino. Di fronte a cui bisogna invece sempre dire no, però c'è da rifare l'impianto elettrico, il giardino da rimettere a posto. Invece io ero proprio con le stelline negli occhi e allora mio marito me l'ha presa subito. E quindi quest'anno festeggeremo qui i 43 anni di matrimonio. Ma che meraviglia, complimenti Amina. Senti Amina, visto che siamo vicinissimi al Natale, cosa fate domani per il giorno di Natale? Pranzate lì? Tornate a Roma? No, il Natale lo passo qui, vengono su i miei, viene mia sorella con la figlia e lo passo qui perché qui a Serrone a Natale fanno tutta un presepio, non un presepio vivente, fanno un presepio dei manichini tutti vestiti con gli antichi costumi sociari. Ma che meraviglia, Serrone, scusa, così per quelli che sono da quelle parti magari un giro se lo fanno a Serrone. Sì, ma il Natale qui è molto famoso nella zona, nella sociaria, vengono. Però insomma lo diciamo anche alla Radio 24, così magari lo sa anche qualcun altro. Amina, prima di salutarti, io vorrei tornare un attimo alla storia, perché da lì, la storia invece è ambientata a Roma, giusto? Sì, la storia è di Roma, Monteverde Vecchio, è la zona dove vivevano i miei e dove ho vissuto anch'io per tanti anni. E adesso quella casa, immagino che non ci passi più da tanto, la casa della maestra di piano, che tra l'altro il dettaglio che sia al piano rialzato è indicativo, no? Perché uno ci passa davanti, si può quasi guardare dentro nelle case che hanno le finestre. Guardare dentro no, ma allungare una mano e arrivare al cornicione sì. Sai che fine ha fatto? Ci sta qualcuno? È stata venduta la casa? Non hai idea? So. Non lo so, perché io raramente passo ormai di lì perché i miei purtroppo non ci sono più da tanto tempo. E non hai più neanche la casa lì tu a Monteverde? Sì, io ho la mia casa, la mia piccolissima casa a Monteverde, non quella dei miei, quella mia. E praticamente sto a Roma, però appena posso corro qui in questa casetta di riposo, è proprio l'anima si apre, ci sono dei tramonti stupendi. Amina, purtroppo devo salutarti, mi è stato un piacere parlare con te, leggere la tua storia. Grazie. E vabbè, buon Natale ovviamente per domani e soprattutto auguri per i vostri 43 anni di matrimonio insieme. Come si chiama tuo marito? Grazie. Come si chiama tuo marito, Amina? Mio marito si chiama Giuseppe. Giuseppe Amina, complimenti ancora, un abbraccio, a presto. Un abbraccio. Ciao Amina. Ciao. Davvero, non chiedetemi il perché, però in questa puntata della vigilia di Natale, la storia che ci ha mandato Amina mi sembrava starci perfettamente. Una storia piccola, da piano rialzato, dove nessuno guarda dentro, anche se è a portata di vista o a portata di mano, come ci diceva un attimo fa Amina. Tutti abbiamo incontrato una persona come la maestra di piano, che ci ha tenuto compagnia per degli anni con la sua presenza bizzarra o magari silenziosa, in alcuni casi quasi fastidiosa, prima o poi nella nostra vita. A me è successa una cosa simile oltre che con una persona, di recente con un cane. Vivevo ancora al mio paese, dove ogni casa ha un cane dietro al cancello che vive di solito lì nel cortile, come in diversi paesi. Sulla strada della scuola che portava a casa, io passavo da una casa che aveva una cancellata verde pisello, adesso non ce l'ha più così, e si trovava proprio all'angolo di una strada. Ecco, in quella casa viveva una coppia di signori anziani che si vedevano molto poco in giro per il paese. E l'elemento più riconoscibile di quella famiglia era Barone. Barone era un piccolo cane nero che nel sangue doveva avere qualcosa dello spinone, perché il pelo era ispido, un po' a punta, aveva anche il muso un po' lungo, insomma aveva un incrocio con uno spinone. Barone iniziava ad abbaiare non appena spuntavi nella sua visuale attraverso la cancellata, e ti accompagnava, ovviamente abbaiando, quando giravi l'angolo e proseguivi lungo la strada. Smetteva di farlo solo dopo che eri uscito di una decina di metri dalla sua vista. Da ragazzino lo detestavo, perché se passavo lì davanti ed ero sovrappensiero, anche se era minuscolo, il suo modo di abbaiare mi faceva sobbalzare per lo spavento. Alcuni ragazzi lo prendevano in giro e gli lanciavano cose tra la cancellata per stuzzicarlo, ma lui puntava dritto il passante e abbaiava senza sosta sempre. Poi, la vigilia di Natale di qualche anno fa, tornai a casa per la cena e poi feci 3 passi per il paese insieme a mia mamma. Ricordandoci della presenza di Barone, ci tenemmo belli distanti da quella cancellata verde pisello. Vedemmo però che lui tese uno dei suoi agguati ad un passante sventurato che probabilmente non era al corrente della sua furia dietro la cancellata, e infatti fece un salto di 1,5 metri per lo spavento e si allontanò mandandolo a quel paese. Io ovviamente risi, perché ci sono cose che mi fanno sempre ridere, come uno che cade ad esempio, uno che si spaventa, non lo so, forse sono un po' scemo, ma è così. Insomma, ci fermammo a distanza a guardare la scena, e quando il passante si allontanò, per la prima volta io vidi Barone in una situazione che non era quella di attacco, cioè non era lì dietro le sbarre ad abbaiare. Visto che Barone lo si conosceva solo per quello, perché ti abbaiava fino a quando non sparivi. Quella volta invece lo vidi abbaiare fino alla fine, e poi, come se non fosse mai successo nulla, o nulla che l'avesse fatto arrabbiare almeno, si girò e trotterellò verso la sua cuccia. Si acquattò con il muso sulle zampe e rimase in attesa probabilmente di qualche altro passante. Insomma, Barone non era cattivo, quello era semplicemente il suo passatempo. Quest'estate Barone è passato a miglior vita, e quando questa sera, dopo la cena della vigilia, farò una passeggiata con mia mamma, so che un po' mi mancherà quella sua furia simulata, che era il suo modo per dire: ehi, guardate che ci sono anch'io. E alla fine, dalla storia di Amina, ho capito che, primo, le vite da piano rialzato sono spesso più interessanti di quelle dei piani alti. Secondo, le maestre di piano hanno spesso qualcosa di particolare. Terzo, regalare dei fiori è sempre un gesto sensato. Quarto, i prodigi non succedono solo la vigilia di Natale. E quinto, magari stasera, se ci presto attenzione, posso sentire abbaiare Barone in lontananza. Somewhere else, I do not know. Time will tell, and I will go. These are the words we use to say goodbye. These are Bye. 349 238 6666. Evidentemente siete o in auto in giro nel traffico della vigilia di Natale, spero di no per voi, o siete a casa, o comunque state ascoltando la radio, perché mi scrivete, Claudia in particolar modo, questa cosa della vigilia, il racconto della vigilia e il fatto che oggi sia la vigilia di Natale evidentemente ispira. Claudia: io il 24 di dicembre, andando a messa a mezzanotte, incontro sempre un signore che fa il sagrestano e che vedo sempre solo quel giorno lì. È un signore basso e gobbo che non so che vita faccia e non so dove abiti, ma mi dà una certa sicurezza vederlo sempre lì. Il sagrestano è sempre stata una figura abbastanza particolare. Cosa fa? Mica lo farà di mestiere il sagrestano, ci avrà un suo lavoro. E chiudiamo così oggi su che mestiere è quello del sagrestano e che cosa fa nella vita il sagrestano. Io ringrazio tutti quelli che anche in questa giornata prenatalizia sono qui con noi, che sono Paolino Corleoni, sono Tiziano Bonini e Miriam Lucchini Lucchetti, io vi auguro una buona vigilia di Natale, spero che stiate tutti quanti bene, che state facendo le cose che volete fare. Ringrazio soprattutto Amina, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Sono Francesca, vivo a Bologna. La storia di domani è la mia. Parla di un Natale, di una bimba e della nascita di un grande e dolcissimo amore. Questa è la mia storia e io sono qui. Franciacorta, un vino, una terra, un'eccellenza italiana. Vi ha presentato Voi siete qui.